l'America, anzi forse è meglio dire proprio Barack Obama, ha varcato ieri il Rubicone del nucleare. Il presidente ha annunciato garanzie federali per 8,33 miliardi di dollari per la costruzione di una nuova centrale con due reattori in Georgia. È la prima volta in 30 anni, però ce ne saranno altre e ci sono già i progetti in Carolina del Sud, in Texas, in Maryland. È un'eredità, bisogna dirlo, che risale a George W. Bush, questa svolta di Obama, e dunque anche politica, perché in campagna elettorale per le presidenziali il presidente aveva criticato il nucleare. Dunque Obama fa un altro passo verso il centro. Ma gli USA hanno già 104 reattori nucleari in 31 stati e restano gli americani il maggiore fornitore mondiale di energia nucleare ad uso civile. Ma gli altri avanzano. Ci sono 56 reattori nucleari in costruzione nel mondo, 21 in Cina, 6 in Sud Corea, 5 in India, e il passo, dobbiamo dirlo, lo tiene anche l'Italia, che ha un paio di progetti, uno dell'Enel e l'altro che punta proprio sull'America, gestito dalla Finmeccanica e, guarda caso, di nuovo con la Westinghouse. Abbiamo con noi in linea Simone Bemporad, responsabile della Finmeccanica Nord America. E dottor Bemporad, ormai è una moda, insomma, ci dica qualcosa del vostro accordo. È una moda, ma direi anche una storia, perché l'Italia oggi può ancora vantare delle conoscenze e delle tecnologie in ambito nucleare, perché anche dopo il referendum dell'87, in cui di nucleare non parlava più nessuno, in Ansaldo Energia venne mantenuto un presidio di ingegneri che continuavano a fare le loro ricerche e a studiare la tecnologia nucleare, e questo ha consentito all'Ansaldo Energia di rimanere in contatto con le industrie che sviluppano tecnologia nucleare, così oggi l'Ansaldo si proporrà per il programma nucleare italiano. Ecco, può dirci quali sono i tempi per noi di questo progetto? Tempi, modi, costi magari? Noi vogliamo assolutamente farci trovare preparati per la scadenza che è stata indicata dal governo, che è quella di posare la prima pietra nel 2013 e entro la fine del decennio avere già la prima energia che provenga da centrali nucleari. Dove verranno localizzati gli impianti ovviamente è un discorso che dovrà essere deciso di volta in volta in base a ogni singola centrale. Il programma è un programma ambizioso e dovrebbe riportare l'Italia sui livelli dei paesi più avanzati a livello mondiale, perché ci si aspetta che dall'energia nucleare, una volta che il programma verrà realizzato, l'Italia possa trarre il 20% del fabbisogno.